gli occhi tuoi, è fermo il tempo dei battiti miei, così seguo il respiro fragile che ti riporterà a me. Imperfetta anamnesi e la memoria e non è più mia. Io ti aspetterò, sovrapponendoti a tutto quello che ho, sospiri e lacrime, amore e follia. Che ho, ti guardo e lo so che mi guarirai. Ti avvicini in un perfetto sentire, ma è uno schermo virtuale, lo squilibrio del cuore. Sono come il cielo.